Kabù! Stravai fra Chiatenza e Gnomni e Smirgalotti Ravò. Milan, bolscevico, cambia disco! Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin. Comunista bolscevico, Milan Setung, Setung, Setung. Setung. Piegati al sistema che non siete altro. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, ben ritrovati per una nuova puntata di Uno, nessuno, 100 Milan. Siamo qui dalla ridotta di Viale Monza in Milano per quel che mi riguarda, ma devo subito leggere un messaggio. Non ho neanche iniziato la puntata e Claudia mi scrive: Milan, oggi c'è Calabresi, vero? È pure arrivato il podcast, evviva! E vabbè, ormai spodestato anche qui con un colpo di stato silenzioso. Mario Calabresi, buongiorno! Buongiorno! Calabresi, buongiorno, bolscevico! Questo è chiaro. Questo è qui chiaro. L'hai prodotto tu in cantina. No. Io no, ci tengo a dire ai tuoi ascoltatori che di bolscevico ce n'è uno solo e sei tu. Punto, sì, fine. Questo è vero, ecco. Questo è vero. Hai visto che Claudia c'è già? Cioè venerdì, prima c'era venerdì gnocchi, adesso venerdì. Esatto. No, era giovedì gnocchi, però. Era giovedì gnocchi? Ah, era giovedì gnocchi. Vabbè, giovedì. Almeno gnocchi. Con mia nonna era giovedì gnocchi. Non so. Vero. Perché poi subito non so perché era fare la nonna. Una sfida, gli gnocchi erano le nonne. Che poi perché giovedì o perché venerdì? Ma secondo me era giovedì. Ma no, venerdì è pesce. Giovedì. Venerdì comunque sia venerdì è sempre pesce, stato un po' di magro, sì. Non solo in sì, quaresima. Sì. Giovedì gnocchi. E vabbè, Ale. Siamo partiti così per la rubrica di gastronomia. È tutto. Ben ritrovato, caro Mario. Allora, grazie. Io voglio salutare la redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, ci siamo, c'è Carmelo Lauricella oggi in regia e c'è la nostra anche Laura Faggin che ci aiuta lì in regia e che ringrazio molto. Allora, caro Mario, vogliamo subito partire, i numeri sono i soliti, 800 24 00 24 per telefonarci, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Vai Carmelo, che abbiamo tante cose da dire. Enthusiasm about the future. Allora, abbiamo tante cose da dire. Oggi ruberò una delle storie che Mario Calabresi ha fatto sulla sua newsletter, mariocalabresi.it, proprio fresca di stampa virtuale, perché tra poco ci racconterai. Hai fatto una, soprattutto delle tre storie, mi ha colpito su una residenza per anziani, possiamo chiamarla così. Prima però, Mario, ti devo dire una cosa. Dobbiamo parlare un attimino di noi della radio, due minuti, concedete. Perché è uscita una ricerca molto interessante ieri sull'ascolto della radio ai tempi del coronavirus. Due dati interessanti: aumenta la credibilità dell'informazione in radio, cioè aumenta il 41% delle persone ascoltate dicono, ed è un aumento del 15% rispetto a prima, la radio è credibile, degna di fiducia. Al di là del parlare, insomma, di noi della radio, c'è un po', secondo te, Mario, il tema di dove reperire un'informazione credibile, soprattutto in questo periodo molto molto secondo delicato? Me sì, secondo me è un tema centrale e si collega a un'altra cosa, si collega al ritorno degli esperti. Mai come negli ultimi 5-10 anni non venivano tollerati gli esperti, una cosa che cresce, che nasce con la crisi economica. Quando arriva la crisi economica, i primi, la gente dice: no, vabbè, ma sti economisti che non avevano capito niente e che ci danno ste ricette, non ne vogliamo sapere. Se questi sono gli esperti, non voglio gli esperti. Oggi, di fronte al virus, invece, stiamo tutti, non abbiamo voglia di sentire i cialtroni che si improvvisano e cerchiamo qualcuno che ci dica delle cose che abbia studiato tutta la vita e che perlomeno ci dia un minimo di orientamento. Da questo punto di vista, se ci pensi, e lo dico io che non sono uno che viene dalla radio e fa la radio, quindi non ho conflitto di interessi, la radio che ha nel suo DNA il fatto di non essere spettacolarizzata, la radio non ti permette, esatto, di fare i due che si tirano un bicchiere d'acqua, si prendono a schiaffi o i personaggi grotteschi. La radio è un luogo dove la parola, il racconto, la spiegazione è ancora al centro e quindi è comprensibile e secondo me è lineare che in un momento come questo la radio sia un mezzo che ha una credibilità superiore, perché è un posto dove tu vai, non cerchi spettacolo, ma vai per capire. E sì, quindi io credo che da questo punto di vista sia fondamentale. Sì. Io lo dico sempre con una frase un po' brutale, anche se non vuole essere niente contro la TV, quando dico la TV è finta, la radio è vera, non è appunto un insulto alla TV assolutamente, ma per dire, come dici tu, che in TV c'è tutto, c'è l'immagine, ci sono le distrazioni, c'è anche il giocare sulle facce, mentre la radio è solo la parola, solo la credibilità o meno del racconto dell'ospite che dà delle notizie. Poi c'è anche l'altra notizia, vabbè, che ovviamente questa è ovviamente da quando è arrivato Mario Calabresi anche a Radio 24, l'orario di ascolto soprattutto si è spostato più verso le ore 9, quando inizia evidente. Uno nessuno 100.000, insomma, è evidente, no, vabbè, chiaramente ci si sposta meno in macchina, ci si sveglia più tardi e ci fa piacere, c'è Mario Calabresi e quindi insomma, anche se si guardano le curve dei social, la fruizione dei social da Facebook a Instagram e tutto è spostata di più di un'ora e mezza più avanti, quello che prima l'attività che prima era delle 7:30 adesso è delle 8:30-9, è proprio spostata. Allora Mario, tu ci devi raccontare tra poco una storia molto bella, però il primo spunto che ti do è questo. Il titolo del quotidiano nazionale oggi secondo me è il migliore ed è questo: Stop and Bo. Cioè invece di Stop and Go, Stop and Bo. Non si sa cosa succederà. Il Fatto Quotidiano oggi ha riepilogato le 40 task force che sono state create. Pare 40 tra vari comitati, ministeri, all'innovazione, le regioni. Cioè, tu hai capito se esiste un piano, un'idea, un progetto su come ripartire? Poi il quando lo vedremo. E devo dire, non per fare del qualunquismo, però mi sembra che questo sia il punto più delicato e più preoccupante. Abbiamo di nuovo una data, che è quella del 3 maggio, però manca un piano chiaro di scadenze, cioè ne abbiamo sentite tantissime di ipotesi, però in mezzo a tutte queste ipotesi ci mancano un po' di certezze. Va bene, adesso abbiamo capito che le scuole non riaprono e poi però ci dicono però tengono a casa i ragazzi e gli anziani, però si fa con l'app, però alcune aziende riaprono, però si spalma su 7 giorni. Io devo dire che da questo punto di vista manca un'idea di, va bene, ok, ma dopo, sapendo una che cosa, succede? Deve essere chiaro a tutti una cosa: non è che il governo può fare miracoli quando ancora nessuno al mondo ha un vaccino o una cura che si possa dire è una cura degna di questo nome. Stiamo provando tante medicine, si stanno provando diverse che in un certo modo funzionano un po' da una parte e un po' dall'altra, e sappiamo che ahimè non sarà una questione delle prossime 2 settimane, ma è terribile dirlo, dei prossimi 2 anni, del prossimo anno, finché non avremo un vaccino, finché non avremo una cura. E allora fino ad allora probabilmente le nostre vite saranno delle vite faticose in cui dovremo avere un sacco di pazienza, però ci vorrebbero delle indicazioni. E quello che colpisce è che sempre più persone incominciano sostanzialmente, quelli che possono e ci provano, a far da loro. Cioè io parlavo ieri sera con 2 medici che si sono procurati il test sierologico e se lo sono fatti loro perché vogliono sapere con che tranquillità possono operare in ospedale. Loro non lo facevano per loro stessi, lo facevano preoccupandosi dei pazienti. Sì, sì, cioè, è l'Italia del fai da te. Cioè, capito? E tu vedi quanti anche imprenditori incominciano a dire, va bene, io riapro ma mi metto nelle condizioni io, mi do dei... Prendi la Ferrari che riapre e ha fatto un piano con Burioni per muoversi in sicurezza. Allora, benissimo chi lo fa, e quindi non sono di quelli che dicono no, tutti fermi, nessuno abbia iniziative, dobbiamo aspettare il governo. No, se uno ha iniziative intelligenti, ben venga e vada. E il punto però è che da questo punto di vista il governo dovrebbe dare risposte. Sì, ci vorrebbe una direttiva dall'alto. Ma infatti mi permetti di salutare l'ospite che ti sta ascoltando e che è uno di quelli che ha deciso, faccio io a questo punto. È un imprenditore, si chiama Franco Daniele, buongiorno, è titolare della Tecnostrutture di Noventa di Piave, sei in provincia di Venezia. Buongiorno Daniele e grazie di essere qui. Buongiorno a voi, buongiorno dottor Calabresi. Buongiorno. Lei ha commesse un po' ovunque, se ho capito bene, lavora per esempio a Monte Carlo, lavora in Danimarca, che cosa fa nella sua azienda? La nostra azienda è specializzata nella costruzione delle scocche degli edifici. Abbiamo una storia che abbiamo partecipato alla costruzione di 22 ospedali in Italia e negli ultimi anni, l'anno scorso, abbiamo fatto circa il 30% del nostro fatturato all'estero. Quest'anno il nostro budget ante coronavirus era oltre il 50%. Stiamo costruendo, oltre a un prestigioso lavoro a Monte Carlo, abbiamo fatto una scuola medica a Malta e stiamo adesso costruendo uno dei grandi ospedali in Danimarca, e per questo abbiamo chiesto la deroga al prefetto e continuiamo a lavorare solo su quella commessa ed un'altra. E abbiamo preso l'altro giorno un'altra piccola commessa di un altro ospedale a Coe in Danimarca. Quindi... Solo che lei a un certo punto ha detto, visto che devono lavorare in quei paesi, a questo punto nell'incertezza pago io di tasca mia da imprenditore i test sierologici ai miei dipendenti, perché in quei paesi mi chiedono che i lavoratori debbano essere, come dire, negativi al virus. E lei ha pagato di tasca sua, lo fa di tasca sua, no? Sì, beh, dirò che la considerazione nasce dal fatto che in un mese io trascorro più tempo con i miei collaboratori che non con la mia famiglia, quindi la salute e la sicurezza innanzitutto è il primo obiettivo. E poi c'era il problema della quarantena, cioè il fatto di dover mandare le persone, perché è nata la reciprocità della quarantena in Europa, cioè se uno esce dall'Italia deve stare 15 giorni fermo, se entra in Italia altri 15 giorni fermo. Il là mi è stato dato da Monte Carlo, dove mi ha detto, guarda che qua il mio cliente vuole il test sierologico. Da là ho partito ad informarmi, eccetera, ho dedicato qualche giorno, ho avuto il supporto fondamentale poi di Assindustria, perché questi test vanno fatti in centri abilitati che hanno protocolli, e mi hanno messo in contatto con un centro di medicina che ha capito l'urgenza in tempi brevissimi. Si era già mosso in questa direzione, abbiamo fatto questo. Poi ho scoperto che eravamo tra i primi probabilmente, ma il mio obiettivo era la sicurezza, cioè come in una barca. Sì, che l'obiettivo è la sicurezza, ma anche un po' non perdere le commesse, anche un ma po' certo, continuare a lavorare. Certo, assolutamente sì, perché i tempi, il nostro sistema è riconosciuto per tempi certi e costi certi. Nel momento che non si riesce ad avere le risorse nei tempi, eccetera, salta tutto il programma. Sì. Quindi era quello di Mario, qui c'è, no, ma è chiaro, qui c'è l'aspetto appunto del faccio da me a sto punto. Che non lo so se vederla come una storia positiva o negativa. È un po' la storia del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Cioè, può essere positiva, ma dimostra anche una mancanza di programmazione a livello centrale, abbastanza amara, no? Diciamo così, quello che manca sono delle linee guida, perché poi è evidente che le realtà grandi e piccole dovranno provare ad attrezzarsi anche in maniera creativa. Tu vedi cose nel grande e nel piccolo che la gente si inventa, che non è che gliele può dire lo Stato centrale cosa deve fare. Io ho un baretto sotto casa aperto da due ragazzi da 6 mesi, praticamente destinato al fallimento, perché è piccolino, sì. E quindi prima col distanziamento sociale ci possono stare due persone, e questi due ragazzi si sono inventati che mettono i cocktail sottovuoto e li portano a casa. Non è che questo glielo deve dire qualcuno, e lavorano a turno uno per uno per non correre rischi. Allora, questo è un esempio piccolissimo, come è grande questo che abbiamo appena sentito. Il punto però è dare almeno un quadro minimo di indicazioni certe all'interno del quale muoversi. Per esempio, dopo le mascherine. Ma dove si trovano le mascherine? Ancora adesso arrivano a singhiozzo. Dove si trovano le mascherine? Il test è la nuova cosa che la gente a un certo punto spera di poter fare. Detto ma questo, infatti, ci sono due possibili risposte dal test. Perché una risposta è che tu sei negativo, quindi non sei... questo poi è il tampone anche che ti dice se sei malato o non malato. Ma oggi avere un test che ti dice che tu hai gli anticorpi e che quindi la malattia magari come asintomatico l'hai fatta, è ancora meglio, nel senso che è una patente da questo punto di vista, per cui tu puoi andare in giro perché probabilmente non ti riammali, o comunque tu l'hai già fatta. Però vedi, abbiamo sentito anche ieri Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità dire in questo momento delle patenti in base a dei test è un po' complicato. Sì, non ha questa certezza. Non ha questa certezza, però siccome adesso vedevo oggi che in prima pagina sul Corriere che bene o male nei primi test a campione che stanno facendo circa il 10% della popolazione l'avrebbe fatta, e quindi molti l'hanno fatta in maniera leggera o asintomatica, oppure pensavano fosse una bronchite un po' forte. Questo cosa significa? Il 10% della popolazione, torniamo a quei 6 milioni che stimò, partendo dai nostri morti, l'Imperial College di Londra ha stimato che probabilmente in Italia ce n'hanno avuto 6 milioni. Ritorniamo sempre a questa cifra. Ecco, se quei 6 milioni uno li individua, quelle sono persone che possono tornare a lavorare. Perché sì, non anche sono perché, persone tra l'altro, meno a rischio. 6 milioni vuol dire che, io lo continuo a dire, i numeri che alle 18 vengono dati ve li potete giocare all'otto quando il lotto ripartirà, perché non hanno più molto senso. Vorrei chiedere un'ultima cosa a Franco Daniele nel ringraziare e salutarla. È stato complicato trovare questi test, accedere a questi test, fare questi test? No, direi di no. Certamente bisogna darsi da fare. Vivo anche in una regione dove questi test sono stati fatti nelle case di riposo, quindi c'era già un vissuto. Però permettetemi una cosa che mi preme. Attenzione che c'è il virus della pandemia economica, cioè forse non ve ne rendete conto, ma si rischia di morire di questo. Oggi noi avremo bisogno di un servizio bancario efficace ed efficiente per le cose ordinarie, perché muoversi servono fideiussioni, garanzie, e oggi le banche ci dicono ma siamo occupati nella moratoria. Le banche hanno delle risorse che non tengono in considerazione oggi, perché ci sono tanti scivoli fatti per la prepensionamento eccetera, c'è una sorta di riservisti che potrebbero richiamare per svolgere le pratiche relative alla moratoria che oggi stanno ingolfando il sistema bancario. Oggi per pratiche normali io mi sento dire ma io sono stato spostato alla moratoria, quindi non posso seguire il finanziamento del fondo del medio credito centrale. Sì, sì. No, ma è chiaro, diciamo che la situazione è complicata, perché è una situazione quasi senza precedenti, se non senza precedenti, però effettivamente è difficile. Però serve creatività ad ogni livello. Sì, sì. Questo è vero, è anche un po' di flessibilità. Noi la ringraziamo, Franco Daniele, ripeto, titolare della Tecnostrutture di Noventa di Piave, provincia di Venezia. E Mario, vorrei venire appunto alla tua storia che tu hai raccontato sulla newsletter con questa premessa. Oggi Mattia Feltri scrive sulla Stampa in prima pagina: se vogliamo regolare i conti con la regione Lombardia attraverso la magistratura, si riferisce soprattutto alle inchieste sulle residenze sanitarie assistite per anziani, tanti auguri, scrive Feltri, finirà come nel 92-94. Si parte dall'ultimo degli infermieri, attraverso medici primari, manager, sindaci, assessori, agenzie di tutela, si arriva ovunque, a segretari di partito che esortavano alla riapertura, ministeri ondivaghi, alla presidenza del Consiglio e, volendo arrivare al ridicolo, fino all'OMS e a Xi Jinping. Vabbè. Anch'io un po' di scetticismo su questa idea di stabilire tutto quello che è successo nelle nostre residenze finanziarie attraverso i magistrati, ma vedremo. Tu però oggi racconti una straordinaria storia positiva, se vogliamo, di una residenza particolare per anziani. Cioè, ho fatto una storia al contrario, non quello che non si è fatto, gli errori che appunto evidentemente degli errori ci sono stati, e il tempo, la magistratura, ma anche il tempo, le inchieste, l'esperienza ci diranno che errori ci sono stati. Allora io ho però cercato una storia in cui emergesse quello che invece si poteva fare e che alcuni hanno fatto, e allora ho trovato che esattamente a 1000 metri di distanza dal Più Albergo Trivulzio, la baggina milanese, diciamo la residenza per anziani più famosa di Milano, a 1000 metri, oltretutto con una strada assolutamente retta, c'è un'altra casa di riposo che si chiama la Casa di Riposo per Musicisti Giuseppe Verdi, che fece costruire Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi comprò il terreno, diede l'incarico al fratello di Arrigo Boito, il librettista del Falstaff, di fare un progetto, che era un architetto, seguì i lavori di costruzione e mise in piedi questa casa di riposo che aveva allora 100 stanze, e lui disse per 100 ospiti non ricoverati, ospiti perché saranno i miei ospiti, e poi ha lasciato Verdi, una cosa che non è nota, tutti i suoi diritti d'autore per tenere in piedi questa casa dove abitano vecchi pensionati, cioè vecchi musicisti, librettisti, sì. Tenori, soprano, eccetera, eccetera. E questa casa di riposo ha avuto 0 contagiati e 0 morti. Perché? Perché sta appunto a Milano, poco distante. Perché in maniera veloce e illuminata il suo presidente, che si chiama Roberto Ruozzi, è stato tra le altre cose il rettore della Bocconi, mi pare fino al 2000, e che cosa hanno fatto? Il 27 di febbraio hanno comprato sul mercato 5.000 mascherine e hanno imposto a tutti, agli anziani come agli infermieri o a chi cucina, eccetera, di portare la mascherina. E ai primi di marzo hanno comunicato a tutti che chiudevano tutto, non si entrava, non si usciva, e hanno relegato, come ognuno di noi sta a casa sua, ogni anziano nella propria camera, e gli portano colazione, pranzo e cena col vassoio in camera, con la mascherina e i guanti, e ogni giorno li visita il medico. Però risultato, anche lì, Mario, una scelta non si è contagiato autonoma, nessuno. Cioè una scelta come dire, indipendente. Una scelta indipendente, che però ci dice anche una cosa: quanto è fondamentale, quando prima ti dicevo non è che possiamo stare tutti ad aspettare che lo Stato ci dica cosa fare, quanto è fondamentale l'avere rispetto per le cose, per le persone, e farsi carico del senso di responsabilità. Non hanno aspettato lì che si dicesse mettiamo le mascherine, non hanno aspettato che si dicesse allora dobbiamo chiudere tutto, ma lo hanno fatto, Ma infatti il titolo di apertura oggi di prima pagina: anziani, nessuna pietà. Io non lo so se chiaro, lo sai meglio di noi, Mario, i titoli sono titoli, non lo so se davvero non ci sia stata nessuna pietà per gli anziani in maniera così diffusa, però evidentemente qualcuno che ha capito come fare si è mosso in anticipo in maniera autonoma e ha salvato vite umane. Questo è il dato di fatto. La cosa bella è che in questo periodo di quarantena un tenore che è lì da 5 anni ha compiuto 100 anni. e questa è una bellissima cosa. No, tra l'altro io non sapevo, appunto, leggetela sulla newsletter di Mario Calabresi, perché non sapevo anche tutta la storia di Verdi. Cioè, io pensavo, è a due passi anche dalla nostra redazione del Sole 24 Ore, non sapevo, cioè, pensavo fosse intitolata Verdi, invece proprio Verdi l'ha messa in piedi di fatto con i suoi denari, pensa con che i suoi soldi, la finisce nel 1899, e aspettano, e lui aveva 86 anni a quel punto, mi pare, e aspettano la sua morte per inaugurarla, perché lui dice: io non voglio gratitudine in vita. Cioè lui non voleva essere ringraziato, la cosa lo imbarazzava. Per cui lui dà, è che nel momento in cui lui muore, e poi è sepolto lì, lui è sepolto all'interno della casa di riposo, tra l'altro quando tutto riaprirà è un posto che vale la pena andare a vedere, perché pensa che in questi giorni dovevano inaugurare all'interno, cioè hanno costruito un piccolo museo dove ci sono il pianoforte di Verdi, i quadri di Boldini, gli spartiti, le lettere, una cosa bellissima. Intanto leggiamo la storia su mariocalabresi.it e poi quando si potrà andare a visitare, la faremo una visita. Mario, io nel doverti salutare ti devo dare due o tre messaggi. Il primo ci arriva su Facebook di un nostro ascoltatore: e sabato trippa, non lo vogliamo dire, per concludere sabato trippa, non c'è nulla su lunedì, martedì, mercoledì, io non capisco perché, vabbè. E poi c'è questo messaggio di Maila: Mario Calabresi si ascolta perché ha una voce sublime che penetra l'anima, quasi come il Covid, ma benefica. sei il nostro Covid, Mario Calabresi. No, questa non diciamolo, perché è un'associazione brutta. Va bene, dai Mario, ci sentiamo presto. Buona scrive anche Anna, parrucchiera. Guarda Anna cosa ci scrive: mio marito parrucchiere forse aprirà il 25 maggio ma non sa ancora come. Non è che i prodotti e le attrezzature per la sicurezza li trovi dall'oggi al domani, così in due secondi. Anna riassume questa incertezza anche nel mondo dei parrucchieri. Grazie Mario, a presto, ci sentiamo. Ciao, buona giornata. Ciao. Un abbraccio, andiamo a sentire un attimo di pubblicità. Poi attenzione cari ascoltatori, perché tra poco accogliamo Leonardo Manera come ci eravamo lasciati. Ci aveva lasciato con un cruciverba in inglese che non è riuscito a completare per suo figlio Beniamino. Come al solito abbiamo scoperto che Leonardo Manera ha fatto dei gravi errori e ci ha millantato delle cose false, e una nostra ascoltatrice, mossa a pietà, ci ha salvato spedendoci il cruciverba corretto, che tra l'altro abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook. Se voi adesso andate sulla pagina Facebook 1 nessuno 100.000 trovate il cruciverba in inglese corretto. Allora andate lì, guardate la pagina Facebook e poi ne parliamo tra un attimo con Vestagliona. Uno nessuno 100.000. No one left to fight. Boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. Siete terrorizzati nel dire che siamo in mano a un branco di incapaci, che non c'entra nulla con la politica. La politica non c'entra nulla. Siamo in mano degli incapaci, a gente che non ha mai avuto niente, gente che non ha mai lavorato. E vabbè, anche qua lo Stato risparmia un sacco di soldi con i test, visto che se li fanno i privati. Ciao Milan, la credibilità della radio è aumentata nonostante te, hai visto? Sì, sì. Infatti, no, ma è giustamente come battuto tutte le volte, signor Barisoni, quando escono i risultati, che devo dire incredibilmente dicono che siamo in costante crescita anche in questa fascia oraria. Barisoni mi accoglie sempre così in ufficio dicendo: è incredibile, non so spiegarmi come mai, nonostante la tua presenza, aumentano gli ascolti. E io dico: guarda, siamo in due a essere perplessi, però il dato di fatto è questo, siamo in tre. Anche Leonardo Manera è molto perplesso di questa cosa, però devi anche aggiungere che Barisoni sostiene che questo incremento sia dovuto alla mia presenza, diciamo. È vero, devo dire, cioè, sono abbastanza, è incredibile, nonostante la tua presenza Alessandro, gli ascolti aumentano. Certo, meno male che ho avuto, poi lui dice ovviamente, meno male che ho avuto questa illuminazione di affiancarti Leonardo Manera. Esatto, tutto, certo, tutto così, è l'importante è avere così. La stima dei propri capi, dei propri responsabili. Allora, Leonardo, nonostante voi cerchiate sempre di denigrarmi, sì, devo dire, tu sì, in primis, ecco, appunto, cerchi sempre appunto di denigrarmi, ecco, questo sei dispiace tu che denigri anche umanamente te stesso. Sì, sei tu che denigri te stesso, come dimostra Anna Maria. Ce l'avamo lasciati ieri con le crosswords che non sei riuscita a completare per tuo figlio. Anna Maria, che ringraziamo tantissimo, è venuta in soccorso, ci ha mandato anche la foto del cruciverba fatto, che noi abbiamo pubblicato sul sito Facebook. Allora, parliamoci chiaro, intanto, quel famoso due casette vicine che tu hai scritto United, che a me suonava un po' strana. Vabbè, era l'unico errore che ho fatto. La risposta esatta era next to, anche perché è un esercizio sulle su behind, opposite, next to, United. Ma che cacchio c'entra United? No, United ci poteva stare comunque, poi non l'ho letto da nessuna parte che ci poteva stare, era come lettere, vabbè, e poi quindi Anna Maria, che tra l'altro ha controllato tu. Sì. Ma no. Anna Maria dovrebbe anche confessare di aver visto le parole giuste nelle pagine precedenti del libro, le soluzioni, cosa che io non ho fatto. Ecco, Anna Maria, tu accusi, se sei Anna una Maria persona onesta, Anna Maria, rivela che sei andata a vedere le soluzioni e non dire che ha fatto tutto tuo figlio. Non è vero. Non comunque è vero, non è vero. Next to era la risposta esatta, il che vuol dire che quindi finisce next to, finisce però. Quindi la terza lettera di quella lunga definizione che erano le strisce pedonali è una O, non una D. E quindi a questo punto che cosa viene? Perché io non me la sono persa, la risposta esatta, vediamo un po', devo aprire la nostra pagina Facebook e vedere. La terza lettera delle strisce pedonali con attraversamento è una O e quindi è cross the road, cioè attraversa la strada, cross the road. Tutti fenomeni il giorno dopo, certo. Sono tutti fenomeni leggendolo, fatele voi senza andare a controllare le soluzioni, devo anche dire che tutte le altre erano giuste, comunque va bene, siete fenomeni tutti, va bene, ci vediamo lunedì, dai. No, stai con noi, amaro Manera, stai con noi, anche perché adesso vogliamo salutare, torna con noi Andrea Daddio, direttore di Berlino Magazine. Andrea, buongiorno da Berlino. Buongiorno. E grazie di essere qui, perché noi quando ho detto che il titolo che più ci riassume oggi è del quotidiano nazionale, cioè Stop and Bo è la ripartenza. Ecco, guardiamo un po' basiti, anche un po' sorpresi all'Europa, per esempio in Germania, dove l'industria è vero che non si è fermata praticamente, non si è fermata quasi per niente. Beh, ci sono alcuni stabilimenti della Daimler, della BMW che si sono fermati, ma sono state scelte per lo più autonome. Ogni regione ha deciso in maniera indipendente, ma molte hanno lasciato libertà alle stesse aziende di decidere se chiudere o rimanere aperte. Delle immagini, sono veritiere le immagini di Berlino che si sono viste dal giorno di Pasqua con persone che comunque camminavano abbastanza tranquillamente per strada? Sì, sono corrette, ma noi abbiamo un giornale online su Berlino, quindi mettiamo spesso foto, video di Berlino, della vita quotidiana di qua, visto che c'è la possibilità di uscire, ogni tanto quando esco faccio dei video per dimostrare come l'isolamento qua esiste, ma sia diverso da quello italiano. Poi, facendo delle ricerche, se uno va a vedere, l'Italia ha un isolamento simile a quello che c'è in Francia e in Spagna, ma comunque in Francia c'è la possibilità di fare una passeggiata di un'ora, ma nel resto del nord Europa non sono così stringenti le restrizioni. Quindi è vero che se uno fa il confronto Italia-Germania sembra impossibile, sembra incredibile che in Germania ci sia una tale relax nella possibilità nelle norme scelte. Però poi se si guarda un po' tutto il mondo, quantomeno il mondo occidentale, non direi che l'Italia è l'eccezione, ma l'Italia non è uguale a tutto il resto del mondo, e quindi la Germania è più simile a tanti altri paesi di quanto uno possa pensare, anche in Inghilterra, sì, ad esempio, esattamente come a Berlino. Sì, per esempio anche mia cognata che sta in Eindhoven dice che si può girare, cioè con ovviamente il distanziamento sociale, quindi anche in Olanda ci si può spostare, ecco, non c'è il lockdown, ecco, l'ho detta questa terribile parola che non sopporto. Se posso dire una cosa che su cui non si pensa abbastanza, stiamo seguendo la questione molto da vicino, e in Germania c'è un approccio verso il problema molto scientifico. Adesso sta girando molto il video della Merkel, registrato 2 giorni fa, in cui spiega come la curva del contagio in Germania stia più o meno intorno a ogni persona infetta solo una persona, addirittura meno, e di come finché si rimane all'interno di questa proporzione si può pensare a un rallentamento delle restrizioni, anche perché il sistema sanitario regge. L'ospedale di Berlino oggi stamattina ha detto che sui 400 posti in terapia intensiva ne hanno occupati solo 61, e di come comunque questo margine, cioè una persona infetta una persona addirittura meno, finché rimane all'interno di 1.2 si può avere una vita, diciamo, a metà tra adesso abbastanza tranquilla. Ma però devo dire su questo, Andrea, anche in Italia c'è un approccio scientifico, nel senso che io non ho mai visto, come in questo periodo, un ritorno appunto degli scienziati al comando, nel senso che ci danno molte nozioni, per esempio anche questa della diffusione del contagio R0, no? Questo fattore importante. Però mi sembra di capire che poi le decisioni che vengono prese sono ondivaghe, mentre ci fai capire che in Germania, l'altro giorno ci hai detto come una battuta, se si può dire, qui c'è la Merkel che è una scienziata, forse è un po' così, conta anche quello. Sì, ci sono, prima di tutto c'è un discorso politico, parla la Merkel, le opposizioni sono compatte intorno al governo, e poi la Merkel si confronta non con i vari leader politici degli altri partiti, bensì con i vari governatori, che sono governatori di vari partiti logicamente, ma che di fatto rappresentano le istanze di ogni regione, e non vanno contro la Merkel, al massimo si confrontano e cercano di trovare un compromesso, e questa è l'unità di comando. A livello di esperti che parlano, sono pochi, non si intervista qualsiasi epidemiologo, qualsiasi centro di ricerca, parla di fatto il Robert Koch Institute, che è l'istituto di epidemiologia di Monaco, e parlano parallelamente dell'Accademia Leopoldina, che è l'Accademia degli Scienziati tedeschi, questa Halle, e poi degli studi specifici commissionati o dalle regioni o dal governo federale, che vanno a studiare non solo la propagazione del virus a livello scientifico, ma anche a livello di contatti, ovvero hanno fatto delle ricerche incredibili per pignoleria, in cui hanno tracciato tutte le persone da quando si sono svegliate a quando sono andate a dormire, tutte le persone che hanno incontrato, come si è propagato il virus all'interno di piccolissimi centri, e sulla base di questo poi sono andato a parlare al governo federale, che ha preso delle decisioni. Per carità, giusto o sbagliate che sia, c'è molto molto chiaro, alle persone hanno coscienza di come si è arrivato a una determinata decisione, come quella del rallentamento delle restrizioni, perché gli studi scientifici sono stati resi noti 2 o 3 giorni prima e tutti hanno avuto la possibilità di studiarli. Il tema è questo, la chiarezza, cioè quello che si dice sempre. Poi magari non è detto che facciano bene in Germania e facciano male in Francia o in Spagna o noi in Italia, però quello che in questo momento di grave incertezza la gente chiede è sapere che cosa devo fare, ma in maniera chiarissima, non che un giorno mi dicono una cosa e il giorno dopo me ne dicono un'altra, perché altrimenti si va nel panico, anche nel panico sociale. È anche vero che in Italia tutti i virologi che vengono intervistati non la pensano sempre allo stesso modo, quindi si crea anche un po' di confusione in questo senso, no? Infatti certo, Andrea ci ha detto che in Germania parlano in pochi. Esatto, penso che questa sia una responsabilità sia anche della stampa da una parte, perché tutti, anche io da giornalista, sono sempre interesse a cercare una voce che mi dia certezza su quello di cui stiamo parlando. Soprattutto magari la voce che mi vuol dar la notizia, no? Che magari è una notizia che è fuori dal coro, allora la voglio cercare, o dice ho fatto una notizia, ma che ne sai in realtà se hai fatto una notizia o hai propalato una cosa che crea solo confusione. È molto delicato il momento, quindi è comprensibile tutto l'atteggiamento, è comprensibile che nessuno di noi fosse preparato, neanche la stampa, a gestire un tale flusso di informazioni e alle conseguenze del nostro lavoro, però allo stesso tempo, adesso che è passato più di un mese, è importante cominciare a tirare le file del discorso e cominciare a pensare che la chiarezza e la trasparenza è fondamentale, anche perché la gente che sta a casa è praticamente stressata già dai propri problemi quotidiani, che sono quelli economici e a volte anche di rapporti familiari all'interno di un nucleo, di uno spazio ristretto, e avere tutte queste notizie incontro una contro l'altra diventa ancora più un motivo di stress. Ma senti Andrea, nel salutarti, tra l'altro vuoi dire il tuo giornale come lo si trova? Perché Berlino Magazine così... Sì, insomma, cercate Berlino Magazine su così, Facebook o su Google, trovate le pagine dei social. Ieri abbiamo fatto un grande video di una trentina di italiani in Germania che raccontano com'è passare qua la quarantena, e penso sia una cosa interessante per capire un po' quanto in Germania e Italia, al di là che siamo in Germania, tanti italiani la vivono la quarantena come se stessero in Italia, un po' fomentati da quanto sentono da genitori e familiari. Allora, no, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ci sentiamo presto. Andrea D'Addio, lo trovate in Berlino Magazine, trovate così. Caro Leonardo, prima di andare al traffico, è arrivato un messaggio da Luca Verbeni, che tra l'altro dice ti conosce anche molto bene, dice: possiamo dire che tutto il mondo dello spettacolo è fermo, promoter, agenzie, DJ, speaker radiofonici, piccole radio, discoteche, tecnici, pub, fonici, insomma, circa 300.000 persone. Certo. Certo, 300.000 persone che giustamente che ce lo ricorda spesso. E quante pare sono che 300.000? Noi saremo gli ultimi, circa 300.000 persone, e pare che saremo gli ultimi a riprendere, insomma, riprenderanno forse i grandi enti, i grandi teatri con le sovvenzioni dello Stato che magari faranno gli spettacoli in streaming, ma per tutti, io li chiamo i cani sciolti come me, invece ci vorranno mesi, senza che si siano pensate a soluzioni anche per questo settore, che non coinvolge solo gli attori, ma appunto tutta la gente che ruota intorno. Ma sì, certo. Allora, c'è un ascoltatore, ci stava ascoltando in streaming, è saltata la connessione proprio mentre davamo la soluzione del cruciverba. Vabbè, insomma, allora, la soluzione del cruciverba di maniera che trova comunque, caro ascoltatore, sulla pagina Facebook Uno Nessuno 100 Milan, la risposta era Cross the Road. Cioè attraversare la strada. Ovviamente noterà l'ascoltatore che cross the road, la terza lettera, non è una D come impropriamente ci aveva detto Manera, perché aveva fatto un incrocio sbagliato, ma la terza lettera è una O. Cross the road, attraversare la strada, questo. E ci aveva ingannato, questa è la verità. E quindi tutti a pedestrian, ti dico, abbiamo mosso mezza Italia, non ho mai ricevuto così tante mail, te le ho girate tutte, con gente che si scervellava, pedestrian left, pedestrian go, certo, gli hai detto che la terza era una D e tutti disperati mettevano la terza D. Se avessi detto la terza è una O, tutti avrebbero messo la soluzione corretta. Ha parlato in madrelingua di Birmingham. Traffico. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 9:52 minuti, c'è Michele da Piacenza. Buongiorno Michele, eccoci qua. Buongiorno a voi. Siamo da una città, da una provincia che forse purtroppo è secondo solo a Bergamo per numero di morti, siamo a 650, un triste contagio. È vero. Siamo in Emilia Romagna, ma proprio sotto il Po, a confine con la zona lodigiana, quindi è una terra che ha sofferto molto dal 21 di febbraio. Ho chiamato perché prima sentivo parlare di imprenditori, difficoltà di aprire, vi confermo che anche qui il prefetto sta autorizzando di volta in volta l'apertura di industrie, di opifici, rispettando regole di protocollo che sono già operative dal 15 marzo per chi le voglia rispettare, quindi le regole esistono, così come quelle regole che al più albergo di Vurcio magari non sono state rispettate e che magari a Casa Verdi sì, delle direttive esistono, il problema è volerle rispettare. E se mi consente, ma senza polemica, quando gli imprenditori si mettono in cattedra dovrebbero fare oggi un po' di mia culpa, perché a Bergamo furono gli imprenditori, l'industria della zona, a dire di no alla zona rossa in prima battuta. Ora gli imprenditori per cortesia non si mettono più in cattedra, e anche circa i test sierologici, attenzione, perché non sono tutti autorizzati, non sono tutti certificati. Ah, non sono tutti certificati, è vero, sul fatto della zona...

effettivamente se ci, li hai contati ce ne sono, è incredibile. Oggi il Fatto Quotidiano le riepiloga tutte, sempre che siano tutte, dov'è che mi sono perso il foglio, comunque sono 400, se tu ne hai contati 1000, forse 400 gli esperti, ma è incredibile, cioè, è veramente incredibile, è solo italiana. Tra l'altro, tu hai letto la vera epidemia è quella di Task Force. Sì, le task force, attenzione, tra l'altro adesso su giornale che vai c'è anche reazione della task force guidata da Colau, che trovi da una parte Colau viene definito come colui che scalzerà la fine Conte e diventerà premier, apro un altro giornale e Colau dice sotto traccia: ma così allora ci dimettiamo tutti se non contiamo nulla, quindi da premier a prossimo alle dimissioni come presidente della task force. Ragazzi, a vederla a sorridere è uno spettacolo incredibile, a vederla con un po' di amarezza, cioè a vederla alla maniera, c'è da piangere. Va bene, dobbiamo andare al giornale radio, vai Carmelo. Uno, nessuno, 100 Milan. Mela, ma è logico che gli ascolti aumentano. Tu sei un rompiballe. La gente ha voglia di rompere le balle. Insomma, fai 2+2. Fatto la domanda per i 600 euro INPS il 1 aprile ore 7 la mattina. A tutt'oggi non è ancora arrivato niente. Mi sa che è stato un bel pesce d'aprile. Viva l'Italia! Aumentano i vostri ascolti perché sono tutti a casa, ecco perché. Ciao ragazzi. Barisoni è un bell'uomo, Milan un pochetto meno, però è tanto simpatico, io ti guardo sempre, a volte ti odio, a volte ti amo. Va bene, allora, devo dire, per i 600 euro in realtà io conosco persone che li hanno già ottenuti, questi 600 euro, e dirò di più, ci sono persone, una mia amica mi ha detto che è già arrivato il contributo, anche quello dalla banca, mentre ieri ci scriveva un ascoltatore a dire: ma sono andato in banca, neanche sapevano di che cosa stessi parlando, quasi. Voglio dire, anche qui non è che dobbiamo vedere dal nostro punto di vista e dire: siccome a me non sono arrivati è un fallimento. Certo, dovrebbero arrivare a tutti velocemente, speriamo che succeda, però qualcosa si muove, mi sembra, da questo punto di vista. Allora Leonardo, ci siamo? Tutto a posto? Ci siamo, no, pensavo ai numeri che dicevate prima anche con Calabresi, insomma ormai sì. Pare che le stime siano di 6 milioni di persone che sono venute a contatto col virus. 6 milioni però con 22.000 persone decedute, che pur nella drammaticità di chi non c'è più e di chi ha sofferto, ma rappresenta una percentuale non alta, insomma, quindi forse non è il caso di diffondere il panico, ecco, ma di vedere le cose con obiettività, ecco, con una malattia seria, grave. No, ma è chiaro, il panico no. Io dico soprattutto che le cifre che ci danno alle 18 a questo punto sul tema della mortalità, no? Che è questo il tema che tu sottolinei, cioè le percentuali di mortalità non si possono fare certo sulle cifre che ci vengono date alle ore 18 certo. Dalla Protezione Civile, perché se fossero davvero 6 milioni i contagiati, capite che il numero di morti rispetto a 6 milioni non è rispetto ai 100.000 contagiati che ci dicono più o meno. Comunque vogliamo raccontare adesso questa storia di un gruppo di italiani che ci ha scritto una mail, 100.000@radio24.it, e noi diamo loro voce attraverso la voce di Valeria, che saluto dalla Bolivia, quindi è piena notte, credo. Valeria, buongiorno, buonanotte, cosa devo buongiorno. Dire? Buongiorno a voi, sì, qui sono le 4:10 del mattino. 4:10 del mattino, ci scusi per la levataccia, ma insomma in diretta ma dalla Bolivia. Ma si sente molto dove, bene, tra l'altro, hai notato? Perché è collegata via WhatsApp, è collegata via WhatsApp. Dove si trova e perché si trova in Bolivia, e soprattutto ci spieghi perché ci avete scritto, siete bloccati, come purtroppo molte persone nel mondo. Prego. Sì, io mi trovo a Sucre, che è la capitale della Bolivia, Io sto viaggiando in Sud America da un po' di tempo. Arrivo dal Perù, entro in Bolivia più o meno un mese e mezzo fa. Riesco a viaggiare un pochino in Bolivia, al che un mese fa iniziano ad esserci anche qui i primi casi e la Presidente della Bolivia decide di dichiarare l'emergenza fin da subito, perché il 10 di marzo abbiamo avuto il primo caso e qualche giorno dopo c'è stato il blocco delle frontiere ed è iniziata la quarantena. Siamo in quarantena da un mese e siamo bloccati qui perché ovviamente è da un mese che qualsiasi volo commerciale è stato cancellato, è sospeso tutto, le frontiere sono chiuse, non ci sono voli di nessun genere in realtà, e sono bloccati anche tutti i trasporti interni, di conseguenza non ci sono autobus, è impossibile spostarsi. Noi siamo qui in attesa. In attesa di capire come rientrare. No, tra l'altro ci ha detto una cosa anche molto, molto particolare, perché tutti, io quando ha detto la capitale Sucre, io ho detto ma non è La Paz la capitale, invece se non sbaglio appunto la capitale è Sucre, no? E, mentre la sede del governo sta a La Paz. Sta a La Paz, sì. Ecco. Esattamente. Allora, e quindi in tutto questo mese rientrare? In Bolivia, che cosa avete fatto un mese in Bolivia? Come è andato questo mese? Allora, noi siamo alloggiati, siamo un po' dispersi in tutta la Bolivia, questo gruppo di persone, siamo circa una cinquantina, perlomeno le persone che sono iscritte con la Farnesina, poi altri italiani che ci possono essere, questo purtroppo non possiamo saperlo. Abbiamo trovato degli alloggi molto velocemente, in quando c'è stato il comunicato ufficiale. Io sono in un ostello, mi ritengo anche fortunata perché nel mio ostello siamo in pochi, di conseguenza riusciamo a sopravvivere, nel senso che stare in quarantena in un paese straniero, siamo da soli, io sto viaggiando da sola. Ecco, si dividono gli spazi, non si è a casa propria, insomma. Certo. Com'è la situazione della chiusura in Bolivia? Nel senso che mi sembra molto molto blindata lì. Noi si dice in Italia perdiamo le libertà. Com'è la vita lì in Bolivia dal punto di vista delle cose che si possono fare e no? Allora, le restrizioni sono rigidissime, nel senso che appunto, come dicevo, non c'è nessun mezzo di trasporto pubblico funzionante, trasporto privato, anche questo si deve avere un certificato per potersi muovere. E noi siamo veramente chiusi in casa, nel senso che è tutto chiuso. Si può uscire una volta a settimana per comprare da mangiare, solamente dalle 7 alle 12 del mattino, dopodiché chiude tutto, ma è veramente tutto, tutto chiuso. Cioè, c'è davvero questo ovunque, è davvero sì. Una chiusura totale, no? L'esercito che blocca. L'esercito che blocca e noi usciamo una volta a settimana a seconda del nostro numero di passaporto, di conseguenza... non c'è proprio modo di uscire in altri giorni. Io per esempio il mio giorno è il martedì e un paio di giorni fa sono uscita e per strada sono stata fermata 4 volte dalla polizia per controllare il documento per vedere se ero nel mio giorno. Caro Leonardo Manera, tu che ti lamenti giustamente anche un po' della perdita delle libertà italiane, benvenuto in Bolivia. Ma la situazione contagi in Bolivia com'è invece? È molto alta? Allora, attualmente in tutto il paese ci sono 500 contagi. La Bolivia ha una popolazione che sembrano pochi. Il problema della Bolivia è che ha una struttura sanitaria molto carente. E questa quindi non si possono gestire come in Italia, ecco. No, assolutamente, ed è la paura che abbiamo noi, la paura più grande di ammalarci qui. Perché la terapia intensiva non esiste, per esempio. Sì, certo, mi dica. Che cosa chiedete? Cioè, vorreste tornare, vorreste trovare, nel senso, perché se vuol fare un appello, non siete gli unici italiani, anche in altri stati del mondo ci sono italiani che non sanno come rientrare, ma voi volete fare un appello per dire aiutateci a rientrare in qualche modo? Sì, noi vorremmo fare un appello al Ministero degli Esteri italiano, che include la Bolivia nei voli di rimpatrio, perché è come se la Bolivia non esistesse nella lista dei paesi dove ci sono italiani da rimpatriare. Chiediamo di tornare a casa, niente di più, in sicurezza, in prima di tutto, perché quello che ci è stato proposto dall'ambasciata in Bolivia sono stati voli dove ci si appoggiava in realtà a voli di rimpatrio organizzati da altri paesi europei, e di conseguenza non si arrivava in Italia e si faceva scalo in più città, che con la situazione sanitaria attuale, con i rischi di contagio, non è il massimo. Cioè, cosa fa? Poi uno, non so, arriva in Germania, poi deve stare in Germania. Esatto, sì, si arrivava a Parigi o a Francoforte, no, e poi ci dovevamo arrangiare ad arrivare in Italia in altro modo. A piedi, questo, non so. Sì, questo è quello che ci è stato offerto, un volo organizzato dal nostro ministero che arrivi direttamente in Italia non è mai accaduto. Noi abbiamo scritto in ambasciata, abbiamo chiesto, ma la risposta è stata sempre viene da capire come viviate, cioè, nel senso che adesso non vogliamo entrarle nel portafoglio, ma a un certo punto uno avrà previsto un viaggio, poi avrà previsto di rientrare, non so, un lavoro. Valeria, lei che tipo di autonomia ha? Cioè, nel senso che uno a un certo punto cosa fa? Sì, allora, sì, alcuni di noi c'è anche questo problema, infatti non era previsto, e di conseguenza non sapendo come andrà ad evolvere la situazione c'è anche questo problema qua, di capire per quanto tempo ancora si possa reggere questa situazione. Senta un po', facciamo così, adesso è anche notte, se riesce a riprendere sonno, visto che sono le 4:15, noi per il momento la ringraziamo, Valeria, e vediamo di tenere, anzi fateci sapere attraverso mail come evolve la situazione, nel caso noi ci risentiremo nei prossimi giorni. Caro Leonardo Manera, questo è, non ripeto, non sono gli unici italiani, ci sono vari sparsi un po' in alcuni stati, gente che evidentemente non si è resa conto della situazione, che è precipitata di colpo, uno a saperlo prima magari prendeva un volo al volo e rientrava. E invece, comunque anche invece da qui abbiamo fatto sentire l'appello della signora al Ministero degli Esteri, no? Magari qualcuno in ascolto. Sì, anche se una proposta è stata fatta, certo che la proposta andate a Francoforte, andate a Parigi, poi uno cosa fa da Francoforte, forse vi costa meno la vita in Bolivia a questo punto, allora uno se ne sta in Bolivia. In ogni caso andiamo al traffico. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Uno, nessuno, 100 Milan. Just a young gun with a quick fuse, I was uptight. I 600 euro sono arrivati ieri, preannunciati da un messaggio dell'INPS. Ragazzi, aspettiamo i prossimi compiti dei figli di Manera, allora a questo punto. Vediamo di risolvere tutto, vero? Eh sì, eh sì. Eh sì, allora io ricordo a questo proposito c'è un messaggio di Giulia che dice: cari Alessandro e Leonardo, potete anche ridire la soluzione per le due case vicine. Niente, allora ripeto, intanto la trovate sulla pagina Facebook di Uno Nessuno 100 Milan, grazie ad Anna Maria che ci ha spedito tutta la foto del cruciverba risolto, lo trovate lì. Comunque le due case vicine erano, Leonardo, adesso te lo ricordi, l'hai capito? Come si dice? Le due case vicine. Non era United, ma. Next to. È la cosa che dicevo io. No, veramente tu hai detto United. E mi stupisce anche che John Peter Sloan l'abbiamo svegliato ieri, questa è la verità, per cui aveva bisogno di carburare un po'. Su United non ha fatto un balzo sulla sedia. Next to era la risposta delle due case vicine. E quindi cross the road era. L'attraversamento. Va bene, allora, signori, siamo partiti ricordando con Mario Calabresi che c'era giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa, non sappiamo lunedì, martedì e mercoledì che cosa, uno mi ha scritto lunedì dieta, però questi sono un po' i detti popolari, insomma, trippa, io sabato oggi per esempio trippa, farò la pizza. La trippa, bravi, mangiate sì. La trippa. Ma io stasera farò la pizza trippa. In casa. Mamma la pizza mia, fatta la in pizza, casa. Ecco, bravo, la col lievito, col lievito, sì, la farina bianca, mamma mia, che volgarità. Oh, Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, il nostro cuoco, il nostro chef. Buongiorno. Mi chiami, sì, mi può chiamare chef emozionale, mi può chiamare sì, genio, qualcuno mi chiama Sua Altezza, qualcuno mi chiama Nord Culinario. Come? Perché la bussola... No, perché no? Nord, ma perché la bussola del piacere indica sempre me, la bussola del piacere. Allora, in questo periodo la mia dimora culinaria, il desco di Nicia Pannocchi di Castelbiondo, è chiusa. Ecco, contiamo di riaprire presto. Infatti. Ma sì, ma noi potremmo già riaprire, perché da noi gli avventori sono già seduti. Tanto, ma no, non si mangia, mia. Scusi la battuta, non si mangia la bistecca. Parliamo anche, bravo, parliamo anche in dialetto per peggiorare la situazione, non si magna. Allora, da noi gli avventori sono già seduti a 20-30 metri di distanza uno dall'altro, quindi il problema non si pone, perché da noi la convivialità è un concetto superato. No, non vorremmo mica fare quelle belle tavolate da pranzo, no? Tipo Pasquetta con in mezzo gli affettati e le cipolline sott'olio. Che desolazione, che sconforto. Ecco, io devo sempre spiegare che il mio non è un ristorante, ma è un medium che rende possibile l'impossibile. E come faccio a rendere possibile l'impossibile se ho le mani occupate a distribuire la coppa e la pancetta? Che volgarità. Buone. Allora, perché i nostri avventori partono dal cibo, se vogliamo chiamarlo cibo, e aprono prima la loro anima, poi il loro cervello e infine la app della banca per vedere quanti soldi hanno sul conto corrente. 300-400 mila euro per un pranzo completo. Ma la mia, da noi non si viene per cenare, si viene per un'esperienza che si trasforma in ispirazione. Diciamo un'esperizione, se vogliamo chiamarla così. Bello, un'esperizione, giusto. Ma allora, ma perché? Se tu vuoi mangiare una banale mozzarella in carrozza, vai alla rosticceria sotto casa. Noi la facciamo diversamente, prendiamo la mozzarella, le facciamo fare un biglietto in carrozza business, che c'è il wifi, così intanto che si forma la crosticina fritta può mandare due mail. È tutto emozionante. Che molto, sì, emozionante, ma non si mangia, però vabbè. Allora, oggi voglio regalarvi una delle mie creazioni. Il titolo è Elogio dell'uguaglianza. Elogio dell'uguaglianza. Che cosa è necessario? Una confezione di riso, un batuffolo di parmigiano e uno strumento che troviamo in tutte le cucine, cioè il microscopio con ottiche in vetro planacromatico. Se non lo usate spesso, io non magari. Ce l'ho, io non ce l'ho. Per lei esempio. Non ha il microscopio con ottica in vetro panacromatico. Cos'ha nel suo frigorifero, nella una sua bilancia, cucina? L'affettatrice sì, certo. Avrà. Bravo, per tagliare la pancetta. Venite che tagliamo due fette di pancetta, farà così lei. Bene. Allora, o al coltello, anche al coltello. Si beh, ma sempre vabbè. Peggio. Allora, aprite la confezione di riso e osservate i chicchi uno per uno. Quando ne avrete trovati due perfettamente identici, posateli su un piatto. Potete aiutarvi con il microscopio per vedere se sono identici. Ora adagiate sulla punta dell'indice il batuffolo di parmigiano e soffiate delicatamente per farlo volteggiare nell'aria. Poi aspettate che si posi sui chicchi. A questo punto avrete una vera rivelazione epifanica. Perché il batuffolo di parmigiano non si poserà esattamente allo stesso modo su entrambi i chicchi, anche se sono identici. Qualcuno potrebbe pensare di aver fatto del riso in bianco. Sbagliato. Per esempio. Si tratta di un manifesto politico sulla distribuzione della ricchezza e quindi è una riflessione sul potere. Quando tu soffi sul batuffolo che va un po' di più su un chicco e un po' meno sull'altro. Quindi io spero di riaprire al più presto le porte della mia dimora culinaria. Nel frattempo ho lanciato una iniziativa in cui credo molto. Credo molto. Tutti gli incassi di questa settimana di chiusura andranno devoluti in beneficenza. Allora, quindi vedete bello. Che mi adopero anche, anche per aiutare chi ne ha bisogno. Quindi grazie a tutti. Però sono zero questi incassi. Ma non ha importanza. Sempre a guardare quanti soldi sono. Guardiamo l'approccio mentale, non il denaro per cortesia. Sì, mamma sono mia, zero euro. Che volgarità, che spiacevolezza, persona disgustosa, sgradevole. Quanti soldi, però, i soldi. No, per, andiamo sì, il pensiero. Per completare il pensiero, viene prima, il pensiero viene prima dei soldi. Non importa. Tondo. Giotto, zero. Allora, zero. È l'esperienza emozionale, è il pensiero che valida, che valida quello che si fa. Allora, grazie valida. A tutti da Bernardo. Grazie. Valida. Bernuccio Ferruccio, Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchi. Con Bernuccio però non è male, Bernuccio. Bernuccio non è male. Bravo, rida in modo grasso, rida in modo grasso. Sì, sì, non si è mentre affetta la pancetta. Rida mentre affetta la pancetta. Va bene, dai. Dobbiamo butti chiudere... giù anche un bel bicchiere di vino, ecco, mentre affetta la pancetta e ride in Viale Monza. Io pancetta, chiedo... vino e rutti, mentre si ride così. Io chiedo scusa a Roberto da Milano, ma non ce la facciamo. Se hai paziente, ci teniamo il numero per lunedì, perché tanto questa vicenda ce la portiamo avanti. Ma dobbiamo chiudere qui. Fatemi dare un abbraccio, un grande abbraccio, una carambata faccio a mio suocero Renato. Così faccio un abbraccione a mio suocero Renato. Ale, lo saluto anche se a distanza. Saluto anche Bernuccio, Bernardo Ferruccio, Ronchi Baronchelli. Mentre se è tornato Leonardo Manera, dobbiamo chiudere con il nostro grido di battaglia, almeno il tuo grido di battaglia, che deve valere per tutto il weekend, perché noi ci risentiamo lunedì. Vai Leo. Domani è sabato, che sarà uguale lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Uno, nessuno, nessuno.